con cuore di mamma sotto le scarpe, vorrei faccia scorso camminare sul red carpet, l'appariscenza di una bella presenza, non starò sotto solo per noia, paranoia della tua assenza che... Angelica tu voli in cielo mentre sfioro gli inferi. Angelica tu voli in cielo mentre sfioro gli inferi. Angelica tu voli in cielo mentre sfioro gli inferi. Anche se da ombra, anche se sei meglio te gambe. Noi che prendiamo il volo in cielo di fuoco, sfuggendo ad annati, stridendo le nostre labbra in nero sudati, soldati, alzate le mani, spade affilate, come lame contro chi sputa, contro amore, fidati, come il mio stesso cuore, sospinti da un drago, fatto di eserciti di rime e riti. Giustizia armonica, equilibrio dell'anima, gesta equilibrica, il ritocco al mio cuore dove signore degli inferi. Corri, corri, corri, ora meglio ebri orizzonti tu corri, ridici sopra, ridici, perché sotto oscure di parole i nemici così tutti sembreranno ridicoli. Salvezza dagli eretici, abbandoniamo sudari profetici, prendiamo le nostre penne, noi mitici. Voglio cash su queste rime, voglio cash su vecchie lacrime, voglio cash, e dico addio a te, voglio solo cash. Voglio cash su queste rime, voglio cash su vecchie lacrime, voglio cash, dico addio a te, voglio solo cash. Anche se da ombra, anche se sei meglio te, noi che prendiamo il volo in cieli di fuoco, sfuggendo ad annati, stridendo le nostre labbra in nero sudati. Voglio cash su queste rime, voglio cash su vecchie lacrime, voglio cash e dico addio a te, voglio solo cash. Anche da ombre, anche se sei meglio te, noi che prendiamo il volo in cieli di fuoco, sfuggendo dannati, stridendo le nostre labbra in nero sudati, voglio cash, cash su queste rime, voglio cash su vecchie lacrime, voglio cash e dico addio a te, voglio cash.